Yardbirds con le note di I'm a Man. E allora andiamo ad aprire la pagina dei compleanni di questo weekend, 17 di maggio 1950, e però accomuno anche il 18 di maggio, perché il 17 maggio nasce Bill Bruford, componente degli Yes. Il giorno dopo, cioè il 18 maggio, nasce Rick Wakeman, nell'annata 1949, anche lui componente degli Yes. Quindi facciamo comunella, ascoltiamo una sola canzone per entrambi. Bill Bruford 1950, 17 maggio, 1949, 18 maggio, Rick Wakeman. Il compleanno del giorno. Heard it from another, you've been messing. dancing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and they're spinning me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking of your white lies, you're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for. Con le note di Taking on the Run, il tempo di salutare e augurare il buon lavoro a Tino, buona giornata anche a te, spero che ti abbiano riparato l'auto, penso di sì, così oggi puoi lavorare tranquillo. Un salutone anche a Lara e vediamo se riesco appunto a reperire quel brano. Oggi mi sarà quasi impossibile, vediamo nelle prossime giornate. Prossimo Trisdassi in arrivo, sta planando il sound di Frank Zappa, degli Sweet e dei Foreigner.

è disponibile il catalogo primavera Negative. 132 pagine con il merchandise ufficiale delle tue band preferite, CD, DVD ed altri gadget. È gratis. Richiedilo su www.negative.it. Your love, The Foreigner, ad un passo dalle ore 10. Salutiamo il fungo che capitanava un gruppo d'ascolto lo scorso weekend fino alle ore 4:30 del mattino. Complimenti anche a te. Tino mi conferma che è di nuovo on the road. Un saluto e un ringraziamento anche a Brutus. Poi Knives 88 da Pisa che dice: mi hanno appena sgridato perché sto lavorando con le cuffie e sto ascoltando Rock FM. Lo sto facendo di nascosto. Beh dai, resisti per queste due settimane, poi non l'ascolterai più e quindi non ti licenzieranno, non avrai sicuramente questo problema, caro Knais 88 da Pisa. Mentre per quanto riguarda il miglior Zappa, ma come si fa a dirlo, tutta la sua carriera è stata segnalata con tantissimi album, disseminata di tantissime belle canzoni, è difficile scegliere un periodo in particolare. Invece noi tra breve torneremo con i Jethro Tull, band che arriverà anche, poi ve li segnalerò, con un tour dal vivo in Italia nel prossimo fine giugno e soprattutto inizio di luglio.